Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle riflessioni, alle iniziative del movimento animalista antispecista e vegan. Andiamo in onda tutte le settimane dal 2012 con l'obiettivo di leggere il presente, la cronaca, dando considerazione e attenzione agli animali non umani, al loro punto di vista, al loro interesse. Lo facciamo per ridurre la violenza nei loro confronti e per costruire una società umana cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 567, nella quale parleremo di orsi, orsi e ancora orsi. You oppress every part of me. What you don't know, you're a victim to Mr. Jailer. My point of view. If I die, another will work. Come sapete, seguiamo in modo sistematico le notizie relative ai disgraziati orsi che frequentano le valli della provincia autonoma di Trento, la quale ha deciso di tenere una linea dura, anzi durissima, nei loro confronti. Ricordiamo la morte dell'orsa Danica nel settembre 2014, uccisa dalla telenarcosi, e più recentemente la condanna all'ergastolo di tre orsi che in questo momento sono prigionieri nella prigione del Casteller, un'area della forestale che dovrebbe servire come vivaio di piante boschive, ma che è stata riadattata all'uopo, raffazzonando una specie di zoo per orsi. Intorno a questi tre orsi prigionieri e narcotizzati perché non spacchino tutto e fuggano, cosa che tra l'altro è anche accaduta, sta crescendo un movimento di persone e di protesta che va dalle associazioni animaliste fino ai movimenti studenteschi e antispecisti. Per cominciare a raccontarvi questa storia, vi proponiamo tre brevi schede, tre ritratti dei protagonisti di questa storia, i tre prigionieri del Casteller. M49 è un giovane maschio che era stato descritto come intelligente e coraggioso. Non esita a spaccare finestre e a provare ad abbattere porte per portare via qualche provvista. Essendo dotato di radiocollare, la forestale della provincia autonoma di Trento ha potuto contare 16 tentativi di intrusione in 3 mesi. Fino a quando non avviene un incontro troppo ravvicinato con un pastore che per allontanarlo spara con una carabina. È l'inizio della fine. Il 1 luglio 2019 il presidente della provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, firma l'ordine di cattura dell'animale. Dopo essere sfuggito a diverse trappole, il 14 luglio 2019 M49 viene catturato e trasferito in un recinto elettrificato nel centro faunistico a Casteller di Trento, dove gli viene sganciato il radiocollare. Resterà lì poco meno di un'ora, perché alle prime ore dell'alba M49 fuggirà dal recinto, scavalcando incredibilmente una barriera alta 4 metri e 3 recinti elettrificati. La provincia autonoma di Trento viene accusata di inefficienza e Fugatti firma una nuova ordinanza, dando la facoltà ai forestali di sparare in caso di necessità. L'ordinanza viene osteggiata dal ministro Costa, ma la natura vuole che l'orso, dopo essere sfuggito di nuovo a diversi tentativi di cattura, entri in letargo. È il 7 novembre del 2019 ed M49 non darà segni di sé fino al 2 marzo 2020. Quando compie una razzia di arnie in un'azienda agricola. Il 28 aprile 2020 gli uomini del corpo forestale lo catturano per la seconda volta e lo riportano presso l'area faunistica di Casteller, rinforzata per evitare nuove fughe. Ma l'orso è un tipo tosto, irriducibile, e scappa nuovamente il 27 luglio 2020. Catturato per la terza volta il 7 settembre 2020 con una trappola a tubo nella zona del lago Rai, M49 torna per la terza volta nella recinzione dalla quale era riuscito a fuggire. A vincerlo saranno solo i sedativi. M57. Il 23 agosto 2020 viene annunciata la cattura dell'orso M57. È un giovane di 121 kg, protagonista poche ore prima di un presunto attacco a un uomo nella località di Andalo. L'aggressione sarebbe avvenuta in piena estate, non distante da un campeggio, luogo che in alta stagione vacanziera ospita molte persone. Prima di una seria istruttoria per accertare come fosse realmente andata l'aggressione, il presidente della provincia Fugatti ne aveva già disposto la cattura, che è stata eseguita attorno alle ore 2 di notte dalle squadre dei forestali, mentre M57, all'ingresso del paese, rovistava nei cassonetti della spazzatura. M57 è stato narcotizzato con una siringa di sonnifero e verso le ore 5 è stato portato all'interno del recinto faunistico del Casteller, dove si trova attualmente. Secondo l'associazione LAV, la cattura di M57 è stata illegittima perché è avvenuta senza alcuna ordinanza sottoscritta dal presidente Fugatti. Ma il TAR del Trentino si è espresso sulla questione affermando che la cattura è del tutto legale, anche se basata esclusivamente su un ordine verbale che sarebbe stato formulato dallo stesso Fugatti e del quale non vi è però alcuna traccia. DJ3. L'orsa DJ3 varca il recinto del suo carcere il 17 maggio 2011 e ancora oggi ci vive. Ha 17 anni, 9 dei quali spesi in una prigione. Una creatura spezzata nel corpo e nello spirito. Da tempo si dice che verrà spostata nell'area faunistica di Spormaggiore, che però non è dotata di strutture che possano consentire un graduale adattamento alla nuova situazione ambientale. L'orsa era stata ritenuta molesta in quanto aveva ripetutamente visitato alcuni centri abitati del Trentino, nonostante numerose attività di dissuasione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una predazione di pecore avvenuta in pieno giorno a ridosso dell'abitato di Fisto, nel comune di Spiazzo Rendena. Per catturare DJ3, gli uomini del Corpo Forestale Trentino utilizzano una trappola a tubo, un grande cilindro in acciaio dal diametro di 1,20 m, che scattando consente di rinchiudere l'animale all'interno con elevati standard di sicurezza, sia per gli operatori che per l'orso. È la prima volta che questa metodologia di cattura diffusa in Nord America viene applicata con successo in Trentino e sulle Alpi. We'll drive us away. How we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. On the other side. viene valutato il grado di pericolosità di un orso? Il grado più basso è quello di un orso che praticamente non viene mai avvistato o che in caso di incontro si dà alla fuga. La pericolosità viene valutata in aumento se l'orso staziona in luoghi abitati o frequentati, cosa praticamente inevitabile se si lasciano cassonetti straripanti di alimenti. Aumenta ancora di più se si avvicina a degli alveari, allevamenti o pascoli, se causa danni a strutture abitative, se, venendo sorpreso e sentendosi in pericolo, si lancia in un falso attacco, che poi, diciamo noi, è una tattica tipica del mondo animale, far finta di essere pericolosi senza esserlo, come fanno i gatti quando si gonfiano o i cani quando ti abbaiano contro. Ma a dispetto di ogni logica, si valuta come massimamente pericoloso un orso che attacca per difendere i piccoli o per difendere la propria preda, cosa naturalissima in qualunque mammifero predatore. Gli interventi vanno dalla intensificazione del monitoraggio alla cattura permanente fino all'abbattimento. In mezzo ci sarebbero molte altre azioni, come la gestione oculata dei rifiuti organici, la stabulazione degli animali allevati in stalla, le recinzioni elettriche. In caso di danni agli allevamenti e alle coltivazioni, le province di Trento e Bolzano provvedono all'indennizzo. Le stesse province provvedono a fornire, in comodato d'uso o dando un contributo per il loro acquisto, il materiale di protezione, in particolare reti elettrificate. Il progetto Life Ursus, quello che ha immesso alcuni orsi sul territorio, insiste nel sostenere che negli ultimi 150 anni non si ha memoria di attacchi fisici da parte dell'orso verso l'uomo. Caso vuole che proprio in Trentino si siano verificati 4 incidenti uomo-orso, che però non sono mai stati fatali. In 3 casi le orse erano madri e difendevano i loro cuccioli. Però, negli ultimi 20 anni, 34 orsi hanno subito una ben più triste sorte. Sono stati abbattuti, avvelenati, uccisi per errore, scomparsi o imprigionati. Mentre gli orsi vengono costantemente sedati, si accendono invece le energie messe in circolo dalla loro sorte. A incendiare le micce sono state in particolare le 2 fughe rocambolesche di M49. Soprannominato Papillon, in onore al titolo dell'autobiografia, di Henri Antonin Charrière, il criminale francese famoso per i suoi tentativi di fuga dalle carceri di massima sicurezza, al quale è ispirato il film del 1973 interpretato da Steve McQueen e Dustin Hoffman. Chi è sensibile alla causa della liberazione animale ha sempre fatto il tifo per lui, per M49, sperando che riuscisse a sfuggire ai suoi persecutori e carcerieri. Nel settembre scorso, tre attiviste hanno dato inizio a uno sciopero della fame che sta continuando tutt'oggi. Sono le due attiviste antispeciste valtellinesi Stefania Sbarra e Barbara Nosari. Oltre a loro, è in sciopero della fame anche Daniela Musocco, di Vicenza, dell'associazione LAV. Riccardo Trespidi, il medico che segue le attiviste valtellinesi, parla di una situazione preoccupante. Il cuore, l'apparato digerente, il fegato, l'apparato genito-urinario e il cervello di queste donne stanno subendo danni che diventeranno ben presto irreversibili. Nonostante le loro gravi condizioni, Stefania e Barbara hanno acconsentito a rispondere alle nostre domande. Buongiorno, innanzitutto noi chiediamo che l'attenzione non venga meno su questa vicenda, perché abitiamo in un paese dove purtroppo l'attenzione è sempre molto labile e quindi la condizione di questi orsi in Trentino è veramente drammatica, e non è drammatica da un mese, da due, ma da anni. Ovviamente l'obiettivo finale è quello di ottenere la liberazione, la rimessa sul territorio e finalmente una pacificazione tra il mondo umano e quello degli orsi, dei quali ci si è presi volontariamente carico. Sì, buongiorno, io sono Stefania Sbarra. Ovviamente se stiamo conducendo assieme, io e Barbara, lo sciopero della fame, significa che è comune il valore politico che attribuiamo a questa forma di lotta, perché non è un'azione pietistica e misera, ma è un'azione fortemente di opposizione al sistema. Quindi semplicemente avevo partecipato a uno sciopero della fame a staffetta che era stato indetto parecchi anni fa per ottenere che l'Emilia-Romagna legiferasse in materia di abolizione della catena per i cani. E quindi avevo fatto una settimana, che è veramente poca cosa, ma questo digiuno a staffetta, se viene spalmato su una popolazione di tot milioni di abitanti, acquista un valore notevole. Quindi sì, avevo avuto questa piccolissima esperienza, nulla a che vedere con quello che sto facendo adesso, oramai ormai ho perso anche il conto, mi limito a dire soltanto dal 21 di settembre. Allora, la nostra è una famiglia non convenzionale, una famiglia allargata, della quale ne parlo sempre con gioia e con orgoglio, perché è frutto anche di così, di tanta esperienza passata, di tanto lavoro, di tanto dolore, ma anche di tanta caparbietà e soprattutto di tanta libertà e di rispetto della medesima. Quindi posso dire che anche in questa circostanza, ovviamente non tutti e non tutte possono essere d'accordo, ma principalmente proprio per una forma di consapevolezza, cioè di non poter fare questo, indubbiamente, però c'è il pieno rispetto della mia azione politica. D'altra parte io ho insegnato ai miei figli il rispetto delle libertà altrui, che siano a quattro o che siano a due zampe, perché in realtà siamo tutti animali, quindi loro sanno che per me è sacro il diritto all'esercizio delle proprie facoltà, che sia un orso o che sia un umano. Per me sono perfettamente sovrapponibili. Anzi, dovrebbe essere un dovere questo, non un sentire singolo. Lo riconoscono, lo sanno e lo accettano, lo rispettano e quindi sì, lo supportano. Allora, no, nessun feedback da parte della provincia di Trento, in generale dalle autorità, escluso una telefonata del generale Cites Massimiliano Conti, questo ormai già parecchio tempo fa. Ma attenzione che non venga letto questo come un rammarico da parte nostra di non avere avuto attenzione da parte delle autorità, assolutamente no. Nel senso, non ci interessa, noi infatti abbiamo sottolineato e loro lo sanno, perché è stato detto all'autorità, al potere sin dall'inizio, che non ci interessa essere contattate da loro. A noi interessa solo ed esclusivamente che gli orsi vengano rimessi, anzi, che agli orsi venga restituito il maltorto. Punto. Quello è fondamentale. Noi andremo avanti per la nostra strada, ribadendo che una telefonata da parte delle autorità, che magari poi ci esorta a smettere di digiunare e la cosa rimane così com'è, no, assolutamente non ci interessa. Ecco, sono ben altre le nostre aspettative. Ci siamo dati un limite. No, non ci si dà un limite quando si scende in battaglia, quando si lotta, quando si vuole articolare un piano di guerra. Non ci si dà un limite. Il limite sarà eventualmente quello della salute, ma non ci si dà mentalmente un limite a fronte di una ingiustizia di questo genere quando si scende di combattere contro queste ingiustizie. Quindi si stanno usando tutte le armi a nostra disposizione, questa è sicuramente la principale, per ottenere quello che ci siamo prefisse. Non ci sono limiti alla volontà e poi si vedrà. Fateci gli auguri. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. The dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arrive. Un numero sempre crescente di persone si sente chiamato in causa dall'ergastolo ostativo combinato a questi orsi innocenti. Intorno al grido di dolore che si solleva da quella prigione sta prendendo forma una campagna, hashtag Stop Casteller, che potrebbe dare continuità alla protesta. Abbiamo sentito un portavoce dell'Assemblea antispecista. Negli anni 90 nasce il progetto Life Ursus in Trentino, con cui la provincia di Trento introduce l'orso nell'arco alpino. All'inizio l'orso è un elemento positivo per l'immagine del Trentino, per il turismo, poi le cose cambiano e questi orsi danno fastidio, in qualche modo si moltiplicano, si muovono liberamente sul territorio, eccetera. Gli ingenti fondi che da questo progetto arrivano dall'Europa non vengono utilizzati come avrebbero potuto essere per educare la popolazione a un corretto rapporto con questi animali. E di fatto invece negli anni gli orsi vengono sempre più perseguitati, tanto che oggi possiamo dire che più di 30 sono stati uccisi in vario modo, abbattuti, dicono le autorità. A partire quindi da questi elementi, alcune realtà hanno voluto lanciare la campagna Stop Casteller, realtà anche molto eterogenee, perché tra queste c'è l'Assemblea Antispecista, che è una rete nazionale di attivisti e attivisti per la liberazione animale, c'è il Centro Sociale Bruno di Trento, la rete ecologista Rise Up for Climate Justice del Nord-Est, Fridays for Future Trento, quindi sia realtà nazionali che anche però realtà locali trentine. Il 18 ottobre, quindi, queste realtà convocano un corteo nazionale al Casteller con lo slogan Smontiamo la gabbia. Arrivano centinaia di persone e la gabbia viene effettivamente smontata materialmente in parte, decine di metri della recinzione vengono distrutti. La campagna quindi prosegue ora con azioni di pressione, soprattutto a distanza ovviamente, e nei prossimi giorni, mesi metterà in campo ogni mezzo per ottenere la libertà degli orsi e per mettere in luce un modello di gestione del territorio che è antropocentrico ed è improntato di fatto al profitto di pochi. La campagna può essere seguita, gli aggiornamenti possono essere seguiti consultando la pagina Facebook in particolare di Assemblea Antispecista e del Centro Sociale Bruno di Trento. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. E ringraziando Gianluca Masala per il montaggio musicale, vi diamo appuntamento con la puntata numero 568 di Restiamo Animali, tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.